Essere e benessere di Nicoletta Carbone. 11.07, che bello essere con voi. 800 24 00 24, anche con Peter Bescapè che è in regia alla parte tecnica, e come sempre con Laura Vanossi in redazione. Andiamo ai titoli del nostro sommario. Sportivi, si può fare di più. Voce, un'impronta che lascia il segno. Differenza di sesso, differenza di odore. E allora, come avete sentito dal nostro sommario, oggi cerchiamo di migliorare il nostro allenamento, e questa volta, ancora una volta, devo ringraziarvi perché è lo spunto di questa puntata. Intanto saluto il nostro ospite del venerdì. C'è. Eccolo qua. Dottor Buongiorno Franco, a tutti, ben ritrovati. È arrivato in redazione Zuppo. Zuppo perché io non ho mai usato l'ombrello in tutta la mia vita. In una giornata come oggi questa scelta è un po' discutibile, devo dire. Va bene, comunque infatti la voce si sente che un po' va, ma nonostante tutto è qui, pronto a rispondere alle vostre telefonate. 824 0024. Ma come vi dicevo, lo spunto di questa trasmissione non ce l'ha dato il dottor Confalonieri, non l'abbiamo avuto né io né Laura Vanossi tantomeno, ma un ascoltatore che per fortuna ci ha scritto una mail. Andiamo. Ciao a tutti, sono Giulio, ho 35 anni e sono a un punto morto. Eh sì, perché ho seguito i vostri consigli e ho iniziato a praticare sport. Non sono mai stato troppo brillante nello sport, ma questa volta ho fatto le cose per bene e con una certa continuità. Ho iniziato con il cammino, come consiglia sempre il vostro amico del venerdì, e adesso corro per circa una mezz'ora. Questo ormai da un paio di mesi, e sono soddisfatto. Ma adesso sento che devo e posso fare di più. Ma non so cosa fare e cosa scegliere. Quindi ho pensato, dato che siete stati voi a farmi iniziare, perché non chiedervi direttamente un aiuto? Che causa del suo mal pianga se stesso, dottor Confalonieri. Giulio adesso dice, ma avete fatto iniziare, sono a un punto morto e che fare? Bisogna trovare il trucco per continuare gratificandoci in questo caso in termini di miglioramento. Indubbiamente la tempistica c'è tutta, cioè 2 mesi sono le classiche 8 settimane al termine delle quali finisce un ciclo per l'atleta di altissimo livello, finisce un ciclo per l'amatore, ma finisce un ciclo anche per chi comincia. Quindi quello che stiamo facendo... A 2 mesi? Sì, le 8 settimane sono proprio un periodo classico nella metodologia dell'allenamento. E quindi anche per chi comincia, dopo 8 settimane ci si accorge che quello che facevamo non produce più beneficio, non produce più gratificazione, non è più allenante, e quindi dobbiamo cambiare, dobbiamo introdurre qualcosa di nuovo, dobbiamo modificare il nostro allenamento. E oggi parleremo proprio di questo, cercheremo di ascoltare i nostri ascoltatori, vorremmo che loro per primi ci raccontassero quali sono stati i loro trucchi per migliorare, e noi cercheremo di dare alcuni consigli a partire da Giulio. E allora, la ricetta per andare meglio, chiamiamola così, sottotitoliamola così la nostra puntata, il dottor Confalonieri ci darà sicuramente una mano, anche voi da casa che magari questa ricetta l'avete trovata. E Laura Vanossi ha raggiunto Cristina Franco, quinta donna al mondo che prova a raggiungere il Polo Nord, un'impresa certo non da tutti i giorni, un'impresa dove bisogna essere al top della forma fisica, mentale. Allora sentiamo che cosa ci ha raccontato. Quest'anno ho fatto tutto un programma di allenamento che mi vedeva fare diversi livelli di esercizi. Ovviamente un lungo periodo bisogna variare le cose, perché altrimenti ci si annoia abbastanza e anche il corpo non riesce a subire gli stessi movimenti tutti i giorni. Così abbiamo variato andando in palestra, in bicicletta e corsa, aiuta molto a variare, e anche bisogna abituare il corpo a fare i movimenti particolari. Io odio correre, e quando mi ha detto il mio trainer di mettermi a correre, io sono andata un po' in crisi, e io ho trovato che correre per 25 minuti e poi camminare per 5 minuti mi aiutava ad abituare il corpo al movimento della corsa, e ai muscoli e alle ossa di non stancarsi. Sicuramente ci sono dei limiti, però penso che siano molto più ampi di quanto noi pensiamo, e infatti il momento che ci si mette ad allenarsi, a provare, si vede subito che infatti il nostro corpo è capace di fare delle cose incredibili, soprattutto se ci mettiamo la mente. Allora, dottor Confalonieri, si può dare di più? Noi non dobbiamo andare al Polo Nord, dobbiamo essere soddisfatti, tante volte abbiamo bisogno di cambiare, allora volevamo trovare la ricetta per dare di più e quindi essere soddisfatti a livello della forma fisica, a livello dei tempi, delle prestazioni, anche a livello proprio di soddisfazione, di piacere, di gratificazione. Quindi io direi che possiamo lavorare su questi tre aspetti, lei è d'accordo? Sì, sono d'accordissimo, direi che sono proprio questi i tre ritorni che dobbiamo cercare. Come abbiamo detto altre volte, quando iniziamo con un progetto, e quindi anche con un progetto legato all'esercizio fisico, dobbiamo porci un obiettivo. In questo caso l'obiettivo può essere il miglioramento della forma fisica o della salute, la gratificazione mentale, psicologica, emozionale o il miglioramento di una prestazione di tipo agonistico. E dobbiamo strutturare l'allenamento attraverso opportune variazioni, trucchi, cambiamenti per raggiungere questi obiettivi. Io, rispetto a quanto raccontato da Cristina Franco, sottolineerei due aspetti che possono essere di utilità comune. Sì. Il primo è molto interessante, cioè non conosciamo i nostri limiti, questo è indubbio. Questo abbiamo, mi piace molto. Abbiamo limiti anche a livello fisico, proprio che vanno ben oltre quello che noi possiamo pensare. E quindi questo ci consente di volare alto, cioè ci consente di porci veramente obiettivi anche ambiziosi, partendo dal piccolo, partendo da poco. E il secondo tema è, lei per costruire un'impresa come raggiungere a piedi il Polo Nord ha dovuto introdurre suo malgrado nell'allenamento la corsa. Che ecco, un elemento molto caratterizzante, cioè anche per costruire una prestazione di tipo continuativo, cioè uno sforzo di lunga durata e di bassa intensità, camminare fino al Polo Nord, io nell'allenamento introduco un elemento qualitativo, e cioè la corsa. L'incremento di qualità del lavoro è uno dei segreti, non è l'unico, ma indubbiamente è uno dei segreti che abbiamo per migliorare la nostra prestazione e raggiungere gli obiettivi cui accennavo. Allora, qual è il vostro segreto? 800 24 00 24, suggeritecelo, e soprattutto raccontateci dove vorreste migliorare, sotto che profilo. 349 238 6666. Una mela al giorno. Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Buongiorno, 800 24 00 24. Come vi abbiamo già detto in apertura, oggi siamo ritornati con una nuova puntata sulle misure anticrisi del governo. È 19:31, 800 24 00 24. Cosa intendete voi per essere leggeri? E li avete sicuramente riconosciuti: Roberto Galullo, Giuliano Ferrara, Deborah Rosciani, Giuseppe Cruciani, Gianluca Nicoletti, voci inconfondibili che lasciano il segno, direi, anzi un'impronta. Merito loro, perché sono bravissimi, sono grandi professionisti, ma anche merito nostro. Il nostro cervello infatti ci mette del suo e una ricerca lo prova con tanto di immagini. In linea con noi la dottoressa Erika Sibillo, medico ed esperta di musicoterapia. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno, studio molto interessante, complimenti ai vostri giornalisti. Lo studio arriva appunto dal Dipartimento di Neuroscienze, questa volta siamo in Olanda ed è stato pubblicato recentemente a novembre. Il professor Formisano e il suo gruppo di ricercatori che cosa hanno fatto? Si sono posti appunto questa domanda, cioè può il nostro cervello riconoscere chi ci sta parlando e cosa ci sta dicendo? Ebbene, le conclusioni sono state proprio queste, che quando qualcuno ci parla imprime nel cervello di noi che ascoltiamo una sorta di impronta vocale, come diceva lei giustamente, una sorta di impronta digitale. Quindi è una ricerca sorprendente, affascinante, perché fino ad oggi, se ci pensiamo, i ricercatori avevano pensato solo di decifrare le immagini che il cervello umano elabora, ma pochi studi erano stati fatti nell'ambito uditivo. Allora, cosa hanno fatto? Hanno preso 7 volontari e l'hanno sottoposto all'ascolto del suono dato da 3 vocali pronunciate da 3 persone in modo diverso. Insomma, facciamo un esempio pratico. Coinvolgo lei, signora Nicoletta, e il dottor Confalonieri. Eccolo! Ah, no, no, allora, meno male, perché lui sennò si sentiva un po' tenuto da parte, invece ci tiene. Dottor Confalonieri. Eccoci qua, allora. Io pronuncio le tre vocali, scegliamo la A, la I e la U. Poi le stesse vocali le pronuncerà lei, signora Nicoletta, e le stesse tre vocali il dottor Confalonieri. Ora, cosa succede? Nel cervello dei radioascoltatori, che ascoltano ovviamente, si sono impresse queste tre vocali. È importante le caratteristiche della mia voce, della sua voce, signora Nicoletta, e del dottor Confalonieri. Mm. Se vicino ai radioascoltatori ci fosse uno di questi ricercatori olandesi, sì, pensate bene, solamente guardando nel cervello dei nostri radioascoltatori affezionati saprebbe riconoscere quali vocali hanno ascoltato, cioè se la A, la I o la U, ma straordinario, saprebbe dire senza guardare chi tra me, tra lei signora Nicoletta e tra lei dottor Confalonieri le ha pronunciate. Quindi il cervello parla, dall'impronta nel nostro cervello c'è un'impronta digitale che corrisponde alla nostra voce. Questo noi non è la trascrizione in immagini, perché noi sappiamo che la voce è la nostra firma, basta sentire una voce a noi familiare, sappiamo anche in fondo al corridoio che appartiene a, non so, arriva nostro figlio, nostro marito, il collega, ma i ricercatori hanno fatto proprio questo passetto in più, sono andate, esatto, a vedere come quella voce rimane impressa nel nostro cervello, e questo spiega perché noi riconosciamo le voci. Esattamente, ma l'identificazione della persona che sta parlando, poi indipendentemente da quello che ci stia raccontando, dipenderebbe proprio dalle frequenze di quell'onda acustica che è generata dalle vibrazioni delle nostre corde vocali, cioè dal suono in particolare, caratteristiche come lei ha detto sono uniche e specifiche e che vanno ad accendere proprio, ad illuminare delle aree cerebrali dell'emisfero destro, mentre per esempio le vocali, le frasi, le parole andrebbero ad accendere altre aree cerebrali poste nella corteccia temporale superiore dei nostri due emisferi, destro e sinistro. Dottoressa Sibillo, continuando per questa strada, dove finiremo? Insomma, che cosa ci porteranno di buono questi studi? Ma sicuramente qualcuno ha voluto azzardare un'ipotesi, insomma, sicuramente straordinaria e affascinante, ma dice che si potrebbe arrivare addirittura a trascrivere direttamente dal cervello le nostre conversazioni. Ora, secondo me è meglio fare un piccolo passo indietro, lasciamo pure che questo mondo affascinante, misterioso, che il nostro cervello ci sorprenda sempre e ogni giorno di più. Ma concordo anche con uno scrittore che così ha detto: la conoscenza da sola non basta perché non ha cuore, e infatti è meglio sempre mettere insieme alla scienza un pizzico della nostra umanità, del nostro essere umani. Dottoressa Sibillo, buona giornata, grazie per essere stata con noi. Grazie anche a voi. Pronto soccorso. Cosa fate voi per migliorarvi? Oggi parliamo a tutti voi sportivi che aumentate il vostro livello magari di prestazione, volete mettere una marcia in più, volete che l'esercizio che state seguendo, il programma che state seguendo in palestra magari riesca a scolpirvi un pochino di più i muscoli, o semplicemente avere un pochino più di soddisfazione in quello che fate. Abbiamo subito una telefonata, andiamo a Perugia, ci aspetta Diana. 824 0024. Diana, buongiorno. Buongiorno. Che bella voce, Diana. Grazie. Senta, io volevo chiedere, siccome dai primi di gennaio sono in leggera ipertensione e sto trattando una pasticca, però io ho sempre fatto movimento, quindi camminare, ho fatto sport, eccetera. Ultimamente devo ridurlo proprio perché mi aumenta la pressione. La mia domanda era questa: come posso regolarmi? Dottor Confalonieri. Ma non credo che sia lo sport o l'esercizio fisico ad aumentare la sua pressione, cioè lo sport e soprattutto lo sport di tipo aerobico come la camminata, come la corsa o il ciclismo sono assolutamente indicati proprio perché favorendo la vascolarizzazione, la circolazione, l'attività cardiaca diminuiscono la pressione. Quindi direi che assolutamente, se non ci sono situazioni particolari che non possiamo conoscere direttamente attraverso la telefonata, anzi in una situazione come quella, come descritta dall'ascoltatrice, è raccomandabile continuare con l'attività sportiva, se non addirittura incrementarla leggermente. Allora, molti sms, leggo quello di Andrea di Bologna ad esempio. Mi manca la forza adatta alla mia struttura, valgo meno di quel che sembro, nonostante mi alleni da anni non ho mai avuto buoni risultati. Andrea è un po' scoraggiato. Sì, allora, sottolineiamo un aspetto. Qui dobbiamo distinguere la forza che siamo in grado di esprimere e la struttura. Anche se Andrea probabilmente è un soggetto molto muscolato o ben muscolato, ha dei muscoli che non sono in grado di esprimere forza in modo adeguato. Allora qui bisogna scegliere il momento che si imposta il programma di allenamento in palestra. Se il nostro obiettivo è l'incremento o il mantenimento della massa, faremo certe esercitazioni. Se invece l'obiettivo fondamentale è l'incremento della forza, faremo esercitazioni che sono completamente diverse. Secondo me qui c'è un problema all'origine, non aver stabilito qual è l'obiettivo del lavoro. Abbiamo Mario, ci chiama da Ferrara. Buongiorno Mario. Buongiorno. Buongiorno. Tutti voi, buongiorno. Ecco, volevo chiedere questo, lei è il suo ospite. Allora, io vado in palestra, premetto che non faccio bodybuilding. Sì. Vado in palestra per tenermi in forma. Io mi alleno in questo modo. Un giorno faccio tutta la parte alta e un giorno tutta la parte bassa. Volevo chiedere questo, è giusto allenarsi tutti i giorni? Faccio un esempio, oggi è venerdì, faccio la parte alta, domani è sabato, faccio la parte bassa, domenica ricomincio da capo. Sì. È giusto così oppure è meglio per anche per la salute mentale, il fisico e tutto, lasciare un giorno di riposo, indipendentemente dal tipo di allenamento che si fa, quindi che potrebbe essere, non so, massa, resistenza, forza, tonificazione? Mario, stia in linea con noi perché mi sembra che il dottor Confalonieri abbia bisogno di qualche dettaglio in più. Io direi si riposi tutti i giorni in palestra. Ma questo sicuramente, diciamo che in un programma di allenamento ottimale, sempre partendo dall'esempio degli atleti d'alto livello, perché poi si parte da quello che si studia con l'atleta d'alto livello per trasferirlo a tutti, l'ideale su un ciclo di 7 giorni, che è il ciclo settimanale, anche per chi si allena al massimo, avere un giorno di riposo completo e un giorno di recupero, quindi o è di riposo o è di attività molto molto blanda e alternativa. Quello che però volevo chiedere al nostro ascoltatore è, indipendentemente dai gruppi muscolari su cui lavora, quello che è importante è che tipo di lavoro fa. Cioè, varia il tipo di lavoro, un giorno lavora sulla resistenza, un giorno lavora sulla massa, un giorno lavora sulla forza, o il tipo di lavoro è sempre lo stesso? Mario? Il mio tipo di lavoro, diciamo, è sulla forza, si basa costantemente su 3 serie da 5 colpi. Ok, allora direi che qui il problema non è tanto nel differenziare da un giorno all'altro. È molto forte Mario, dottor Confalonieri, perché vedo che anche Laura Vanossi di là del vetro è rimasta un po' stupita. Forse molto stiamo forte. Stiamo parlando con un fusto? Forse no, assolutamente. Mi piace la forza, non mi piace non la si allena nel modo ottimale, nel senso che sarebbe importante diversificare lo stimolo allenante. Sì. Quindi magari lavorare su tutti i gruppi muscolari tutti i giorni, quindi non differenziare in modo così drastico la parte superiore dalla parte inferiore, magari prendere alcuni gruppi muscolari della parte superiore, alcuni della parte inferiore in tutti gli allenamenti, però diversificare la tipologia allenante, soprattutto se non ha l'obiettivo di diventare grosso. Un giorno lavorare sulla resistenza, un giorno sulla forza e un giorno sulla massa, perché il lavoro, questo è un punto importante, se noi ripetiamo sempre la stessa tipologia di lavoro, in questo caso le 5 ripetute che fa il nostro ascoltatore, a un certo punto questo lavoro diventa inefficace, cioè non è più allenante, magari ci gratifica mentalmente ma non comporta più miglioramenti a livello fisico. Mario, sì. Ha preso nota, ci racconta, sì. Ci racconti. Mi ero dimenticato di dire una cosa, sì, prima. Mario, se vuole poi scriverci perché abbiamo tanti ascoltatori, ma lei ci faccia sapere se con i consigli del dottor Confalonieri è andato meglio. E Mario ci ha dato anche uno spunto in più, noi abbiamo detto si può dare di più, Mario ci insegna che si può anche fare meglio, quindi esatto. Se avete bisogno, se siete mediamente soddisfatti, chiamateci ugualmente, magari avete un programma di allenamento che richiede dei piccolissimi ritocchi e che vi potrà dare quindi maggiori soddisfazioni. 824 0024, i messaggi al 349 238 6666. Andiamo a Milano, restiamo a Milano, ci aspetta Mauro, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, io volevo portare la mia testimonianza che sicuramente l'attività fisica fa molto bene. Ad esempio, io che non ho tempo di andare in palestra, cosa faccio? Io la sera mi piazzo a casa mia, che ho un piccolo monolocale, e comincio a fare addominali circa 50. Poi comincio a fare flessioni circa 30, sì, dorsali e via così. Volevo chiedere al dottore... Mauro, mette anche un po' di musica o no? No, senza musica. Senza musica. Se è meglio farla di sera questo tipo di ginnastica o anche magari di mattina appena svegli? A lei Mauro piacerebbe di più alla mattina o alla sera? Cioè... No, la sera, anche perché posso solo la sera. Senta, io posso rispondere io, dottor Confalonieri? No. Dottor Confalonieri, tocca a lei. No, in prima battuta è vero, vale sempre la regola che bisogna partire da quelli che sono i nostri gusti, quindi se per il nostro ascoltatore è meglio farlo la sera, lasciamoglielo fare la sera. Da un punto di vista fisiologico sarebbe meglio farlo al mattino, soprattutto perché è un lavoro di sovraccarico muscolare, quindi farlo su muscoli riposati comporta minori rischi. E poi anche qua, io capisco che diventi una sorta di rito, qualcuno torna a casa e si prepara l'aperitivo, qualcuno torna a casa e fa le flessioni. E quindi il rito ha una sua valenza che è straordinariamente importante. Però se chi fa l'aperitivo un giorno beve il Negroni e un giorno beve il Martini, sì, anche il nostro ascoltatore potrebbe un giorno fare gli addominali e un giorno andare a correre o fare un po' di ciclette. Sarebbe fondamentale proprio perché... la varietà nell'allenamento garantirebbe risultati migliori. Si può fare di più, si può fare meglio. Questo è un po' il tema della nostra puntata. 824 0024, insieme a noi, come sempre, al venerdì, il dottor Franco Confalonieri. Dottore, allora, tre segreti per migliorare la forma fisica, gratificarsi a livello mentale e migliorare la prestazione. Ci dia le sue tre ricette. Molto rapidamente. Migliorare la forma fisica... partiamo dai punti deboli, cioè non affrontiamo il programma di allenamento genericamente, poniamoci un obiettivo preciso. Il nostro punto debole è il sovrappeso, è l'affanno immediato, è una schiena dolente, benissimo, partiamo da quello e lavoriamo soltanto in funzione del nostro obiettivo specifico in una prima fase del lavoro. Raggiungeremo subito un risultato gratificante a 360 gradi. Secondo punto era... livello mentale, mi sembra di essere a rischio tutto. Esatto, a livello... c'è anche un tempo massimo. A livello mentale diversifichiamo, questo è fondamentale, perché qualsiasi attività, se diventa ripetitiva, se diventa monotona, non è più gratificante. Quindi cross training, alternanza di allenamenti diversi. Migliorare le prestazioni... migliorare la prestazione, incrementiamo la qualità del nostro lavoro. Quasi tutti coloro che fanno sport, ma sia ad altissimo livello sia gli amatori, considerano la quantità di allenamento il parametro fondamentale. Il parametro fondamentale non è la quantità, ma è la qualità. Facciamo qualcosa meno, ma facciamolo a un livello più intenso. Allora, dato che ha risposto bene a queste tre domande, c'è una domanda più difficile, una di riserva. Quella col gran finale. Il gran finale. Allora, noi abbiamo detto che queste ricette le abbiamo date, però si può anche fare meglio. Abbiamo un po' colto lo spunto dalle telefonate che sono arrivate. Tanti ascoltatori stanno facendo un programma di allenamento e lo ripetono. Lei ha fatto l'esempio un po' dell'aperitivo, no? C'è una sorta di rito, però secondo me, ma me lo dica lei, il nostro corpo ci dà qualche segnale per dirci è arrivato il momento di dare una controllatina, aggiungere qualcosa, insomma, ritoccare il programma. Ci sono questi segnali? Possiamo coglierli oppure ce lo deve dire solamente una persona esterna? Stiamo attenti a quattro segnali almeno, posso darli molto rapidamente. Il primo, capita qualche volta che ci chiediamo se andare o no a fare l'allenamento, poi magari andiamo lo stesso, però ci pensiamo, indugiamo e magari lo riduciamo un po', c'è qualcosa che non va. Il secondo, non miglioriamo più. Se non miglioriamo, l'allenamento non è gratificante e prima o poi ci porta ad abbandonare. Quindi anche su cose brevi, tipo facciamo il percorso sul parco e lo facevamo in 25 minuti, continuiamo a farlo in 25 minuti, non siamo più gratificati, dobbiamo cambiare qualcosa nell'allenamento. Terzo, è comparso qualche dolorino a livello articolare, a livello del ginocchio, vuol dire che stiamo sovraccaricando in modo sbagliato. Quarto, abbiamo una qualità del sonno e dell'appetito che sono peggiorate. vuol dire che c'è qualcosa che non va. Cioè dormiamo meno bene o abbiamo un po' meno fame, vuol dire che c'è qualcosa che non va nell'allenamento. Ecco quattro segnali d'allarme. Quinto, non abbiamo più bisogno dei consigli del dottor Franco Confalonieri? Allora? E questo è il più drammatico di tutti. 824 0024, ci chiama Etienne da Monza. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Senta, io volevo semplicemente portare il mio contributo a tutte le informazioni molto positive che avete dato durante questa trasmissione, dicendo che io fino a 2 anni fa ero, diciamo così, in sovrappeso, perché allora mi sono, perché mangiavo in un modo scorretto, non praticavo attività fisica, poi mi sono dato una svegliata e mi sono iscritto in una palestra, alternando a questo la corsa fuori nei campi. Sì. E praticamente una volta ogni tre giorni, diciamo 3 volte alla settimana, faccio più o meno 2 ore di allenamento. Bravo. E questo controllando anche l'aspetto ovviamente del cibo, perché è inutile ammazzarsi di fatica e poi mangiare a ruota libera, certo. Esatto. Quello che posso dire è il risultato che io vedo oggi, cioè in 1 anno e 6 mesi, 1 anno e 8 mesi, ho perso praticamente 10 kg. Bravo. Ed è contento? E sono molto contento, ma non è tutto, perché io sono anche un donatore Avis e io ho il colesterolo, il colesterolo LDL, quello cattivo, che è sceso veramente di più o meno 50 mg di decilitri. Guardi, non ho parole, sono molto contenta perché anche il dottor Confalonieri qua che approva molto, perché queste, mettere in pratica questi non sono poi semplici, no, ma... Ha dato una svolta, Etienne, sì, ha visto, era sovrappeso e si è messo di buzzo buono. Ha fatto almeno 2 cose molto, molto corrette. La prima, alternare 2 tipologie di attività, una di resistenza alla corsa, l'altra di forza alla palestra, e poi con una frequenza di 3 volte a settimana. Abbiamo visto anche quando diciamo adesso bisognerà curare il dottor Confalonieri, se c'è qualche rimedio anche della nonna, potete scrivere, prendiamoci noi cura di lui. Ci ha scritto, ci raccontava infatti Etienne che anche il suo colesterolo è arrivato a essere il colesterolo. Sì, no? La diminuzione di peso, bravo, si è correlata direttamente alla diminuzione dei grassi, diciamo che... nocivi, cioè in questo caso dell'LDL. Esatto, quando diciamo che l'attività fisica è un farmaco naturale senza effetti collaterali, anzi con molti vantaggi, Etienne ci ha detto proprio la stessa cosa. Mauro ci chiama da Brescia, buongiorno. Buongiorno, grazie perché mi avete richiamato, complimenti per la trasmissione. Allora io telefono a mio nome e a nome di un gruppo che va dai 45 ai 58-59 anni che ho io. Noi da sempre facciamo tanta attività, io personalmente faccio da sempre sci alpinismo, sci, footing 2 volte alla settimana e maratone e corse in montagna d'estate. Però chiedevo al dottore gentilmente. Mauro, voi fermi non state mai. Fermi mai, va bene, tanto per intenderci. L'estate inverno usciamo 2 volte alla settimana con i 10, 12, 15 chilometri e la domenica la mezza maratona o la sci alpinistica. E non ve la leva nessuno. Ecco, senza nessuna tabella, perché deve piacere, perché altrimenti non lo fai. È bello andare in gruppetto perché si socializza anche. Però la mia domanda era, al di là del certificato medico agonistico che ci chiedono in queste gare, no? Tipo domenica c'è la maratona di Verona, andando su con l'età, io ho quasi 59 anni, devo rallentare o devo ascoltare il mio fisico che mi dirà quando devo rallentare? Grazie. Grazie a lei Mauro, no, è una bella domanda. Bellissima, che ci dà lo spunto per una prossima trasmissione. Sì, che dice? Sì. Prossimo venerdì parliamo di... quali visite fare per fare lo sport tranquillamente. Preparatevi già. Ciò che è utile e ciò che è inutile. Vedi che per adulti e bambini. Vai. Allora, invece a Mauro, che magari non ha voglia Mauro, di aspettare fino a venerdì. Sì, direi no, l'idoneità non basta in questo caso, soprattutto perché fanno lui e i suoi amici tutte attività che comportano un sovraccarico importante a livello dell'apparato muscolo-scheletrico, in particolare della colonna. Quindi sarebbe utile tutti gli anni vedere se non ci sono situazioni a rischio a livello articolare e a livello della colonna. Se ci sono, intervenire con un programma di ginnastica preventiva e in ogni caso, fatto questo, continuare ascoltando il proprio corpo, che è comunque importante. Sarà lui a dirci se dobbiamo rallentare. Intanto voglio farvi un annuncio. Giorgio da Milano ci scrive: bravi, mi avete convinti, mi iscrivo in palestra oggi stesso. Quindi gli mettiamo una stellina a Giorgio. E invece vorrei leggerle un messaggio di Stefano che ci scrive: corro 2-3 volte alla settimana e mi piace. Non mi piace però fare pesi, ma dovrei, per tonificare la parte alta. Non si può fare correndo? No, però potrebbe fare o un'attività tipo il Pilates o queste attività comunque di ginnastica posturale che garantiscono un buon equilibrio, una buona tonificazione della parte alta, o eventualmente anche un po' di elettrostimolazione relativa a questi gruppi muscolari, così da andare a integrare l'allenamento che fa con la corsa. Allora Antonella invece ci scrive: perché io non riesco a migliorarmi? Odio ogni attività che mi costringa a muovermi e mi sento sempre stanca. Ci sono delle persone che provano a iscriversi in palestra, provano a correre, poi la stanchezza le butta giù e allora diventano poi sedentarie per forza, ma questo non le rende soddisfatte. Abbiamo dei consigli anche per Antonella e per tante persone che si ritrovano un po'. Non è proprio pigrizia, è fatica nel fare le cose, quindi uno abbandona. Sì, non è facile cominciare quando c'è questa situazione di partenza, cioè uno scarso amore per l'esercizio fisico in genere. Io darei due tipi di consigli. Il primo: domani è sabato, ci sono i negozi aperti, Antonella dovrebbe proprio programmare 2 ore di shopping, che prevede anche però un cammino prolungato, sì. È un modo per fare attività fisica diverso e importante. Domenica è previsto bel tempo un po' in tutta Italia, scelga il parco o la villa più vicina e si faccia una camminata con uno scopo a questo punto culturale o naturalistico anche domenica. Va già bene, ha cominciato a stimolare il proprio organismo. In alternativa, quei corsi di ginnastica che si diceva prima, ginnastica dolce, stretching, yoga, Pilates, che riattivano l'organismo senza affaticarlo troppo. Tantissimi messaggi, tanti ascoltatori che vogliono migliorare o fare di più. Questo è positivo, Sì. Perché chi si ferma è perduto. È perduto. Vediamo come sta Paolo, che ci chiama da Torino, 824 0024. Paolo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi in studio. Allora, la mia domanda è questa. Io ho 45 anni e come molti miei coetanei ho un po' di acciacchetti e ci parliamo fra di noi, e chi ha un po' di ernia al disco, chi ha una piccola lesione al crociato, chi ha un po' il menisco fuori posto ma non operabile. Cosa consiglia per noi il dottor Confalonieri? Un allenamento quotidiano ma leggero o un allenamento trisettimanale? Grazie. Grazie a lei Paolo, descritta così sembra un po' la corte dei miracoli, no? Però in realtà sì, sono però... gli acciacchetti che abbiamo tutti. No, io lo sai che ho la borsite calcifica? Bisogna muoversi. Bisogna muoversi. Ciclette e cammino. Allora, e quindi vado anch'io nel gruppo di Paolo. L'ideale sarebbe il nuoto, però non ama l'acqua fredda, quindi non so. Vabbè, se io sono un caso difficile. Beh. Occupiamoci dei casi mediamente difficili. No, allora, innanzitutto gli acciacchetti ce li possiamo anche portare dietro, cioè si può fare sport anche con qualche piccolo acciacco, con un minimo di intelligenza, ma non è un problema. E poi almeno inizialmente consiglierei 3 volte alla settimana leggero. Se no partiamo troppo forte, già l'idea di fare poco tutti i giorni o di fare un allenamento impegnativo 3 volte a settimana, stiamo già andando oltre, c'è il rischio che il nostro acciacchetto diventi un acciacco importante e poi non si faccia più nulla. Quindi 3 volte a settimana, poco, c'è tanto spazio per aumentare. Marco ci chiama dalla Spezia, Marco buongiorno. Sì, buongiorno, io volevo solo fare una domanda. Diciamo io faccio da un anno kickboxing e diciamo facciamo allenamenti di addominali, di flessioni, e poi facciamo degli incontri da 5 minuti l'uno con delle pause da 3 minuti. Ora io ho notato che mi manca fiato, ecco, però il mio problema è che ho solo la domenica per poter andare a correre. Che tipo di corsa dovrei affrontare, dovrei fare, ecco? Sì, allora che manchi fiato è normale, perché quei 5 minuti sono uno sforzo molto intenso con una grossa produzione di acido lattico, quindi si va in debito di ossigeno e manca il fiato. Come allenamento da domenica consiglierei o un lungo in bicicletta, quindi 2-3 ore in bicicletta continuate, o se corre, correre per 40-45 minuti alternando 30 secondi a una velocità elevata e 30 secondi di recupero o di cammino. E direi, sono le 11.49, che è arrivato il momento del nostro consiglio di lettura. Grazie all'iniziativa di Internet Bookshop potete oggi ricevere a casa il libro Pilates per la schiena. Per riceverlo dovete essere il primo ascoltatore a mandare un'email a esserebenessere@radio24.it, titolo del libro, recapiti e numero di telefono, e di schiena, ma in particolare di mal di schiena, parleremo proprio lunedì, quindi se ne soffrite restate con noi. In collaborazione con IBS.it. Faccio nuoto e corsa 3-4 volte alla settimana, vanno bene insieme, ci scrive Danilo. Lei appunto ha suggerito di variare, e allora possiamo dare degli abbinamenti come quelli che ci suggerisce Danilo. Nuoto e corsa. Nuoto e corsa è un abbinamento che va molto bene dal punto di vista dell'impegno muscolare, nel senso che il nuoto impegna prevalentemente la parte superiore, la corsa la parte inferiore dell'organismo. Sono meno bene integrati dal del tipologia di lavoro, perché sono simili, sono entrambe attività che portano a un miglioramento prevalente della resistenza rispetto alla forza. Quale sarebbe l'accoppiata ideale? L'accoppiata ideale sarebbe per esempio fare la palestra e la corsa, o la palestra e il nuoto, oppure fare uno sport breve, cioè uno sport caratterizzato da sforzi brevi e intensi come il calcetto e il tennis, e a quel punto abbinarlo col nuoto, che è uno sport di resistenza che impegna di più la parte superiore. Andrea ci scrive da Milano: pratico il karate da alcuni anni, non mi serve fare pesi, non mi piace, ma vorrei aumentare la forza e la velocità. Si può? La velocità non è migliorabile, è una qualità fondamentalmente genetica e quindi poco migliorabile. La forza la puoi migliorare soprattutto in palestra con degli esercizi a carico naturale di tipo esplosivo. Allora, ma per quale situazione il dottor Confalonieri mi direbbe non fare sport, così prendo la palla al balzo, ci scrive Massimo. Ci sono delle condizioni in cui lei direbbe no? Non lo svegliamo perché ne parliamo venerdì, o accenniamo? No, a parte le condizioni patologiche di cui parleremo venerdì, se una persona sta bene, non ha problemi particolari, è sereno, in equilibrio, non è in sovrappeso e non gli piace fare sport, può vivere benissimo senza camminando. Fare sport. Può anche camminare. Senza fare nulla. Ma un po' di cammino. Maura da Milano, lei che sport? Buongiorno Maura. Buongiorno a tutti, grazie. Ci racconti? Sì, allora io ho 47 anni e ho deciso, visto che mi sono un po' appesantita e non ho tempo per fare sport avendo una famiglia faticosa, di raggiungere il lavoro o a piedi o in bicicletta. In bicicletta va benissimo, invece a piedi, dopo un po' che cammino, dista 5 km la mia abitazione dal lavoro, mi si gonfiano le mani in modo fastidiosissimo e anche un po' doloroso. Cosa può essere, dottor Confalonieri? È un problema di vasodilatazione periferica che si associa all'esercizio fisico, e nel caso della signora c'è un ritorno venoso a livello delle mani che è relativamente deficitario e quindi si gonfiano. Andrebbe fatto uno studio proprio di tipo, per esempio, un Doppler vascolare degli arti superiori per capire questo tipo di problema, e nel frattempo l'ideale è che continui ad andare al lavoro in bicicletta piuttosto che a piedi, insomma. Allora, in questa puntata in cui abbiamo parlato di attività fisica e quindi ci siamo anche seduti in poltrona, abbiamo pensato di muoverci, voglio parlare con voi di una ricerca, ma a me è sembrata un po', insomma, strana almeno, si dice, c'era anche un libro famoso, che gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere. Bene, secondo questa ricerca gli uomini sanno di formaggio e le donne saprebbero di cipolla. In linea con noi per commentare questo curioso studio, che magari porterà qualcosa ma al momento mi sembra un po' stranetto, la dottoressa Serri. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Specialista in dermatologia e dermocosmetologia all'Università di Milano. Dottoressa, lei che dice? Questi odori diversi. Io dico che il titolo può far sorridere, perché l'idea che l'uomo puzzi di formaggio e la donna di cipolla indubbiamente è un titolo che attira e fa ridere. sicuramente, siccome l'odore corporeo, l'odore delle ascelle nella fattispecie, come parlano questi studi, dipende anche da quelle sostanze prodotte dalle ghiandole apocrine, che sono delle vestigia delle ghiandole sessuali dei mammiferi che producono i feromoni, non mi stupisce assolutamente che siano differenti. Quindi che gli uomini producano più acidi grassi, che poi con i batteri presenti sulla pelle fanno virare l'odore verso il formaggio stagionato, non so, verso il camembert, e le donne invece, producendo più sostanze azotate, come dimostra questo studio, tendono più a virare, se sono poche, verso il pompelmo, e se sono tante, verso la cipolla. Se non sappiamo di tropea o meno, dottor Gonfalonieri, cosa le dice questa ricerca? Lei che, insomma, tra palestre, eccetera, ci bazzica. Beh, mi lascia un pochino perplesso, devo dire, ma vorrei capire, questo è un dato assoluto. Le pesa sapere di formaggio? Me ne sono ancora accorto. Però vorrei capire, è condizionato da quello che mangiamo questa cosa, o è proprio, ha una validità assoluta? No, ecco, qui arriviamo, perché ci sono tante di quelle valenze nell'odore del sudore, quello che mangiamo, come stiamo, addirittura i medici di una volta, i dermatologi, ma anche i medici, annusavano il paziente, certo, prima ancora di visitarlo, sì, e tante diagnosi le facevano sulla base dell'odore. Giustissimo. Ci sono proprio degli odori particolari che indicano, vuoi il diabete, vuoi altre situazioni, insomma, per cui l'odore è molto importante. Se qui possiamo, dottoressa, indubbiamente i ragazzi iniziano a, diciamo, tra virgolette, puzzare quando cominciano a produrre gli ormoni sessuali, certo, cioè durante la pubertà, che è il momento in cui le mamme si stravolgono, perché quando entrano nelle camere dei figli svengono dall'odore, soprattutto i maschi, ma anche le femmine. Dottoressa Serri, noi dobbiamo salutarci, quindi c'è qualcosa della nostra dieta che possiamo utilizzare? Certamente, mangiare più frutta e verdura, okay, molto ananas, e prendere integratori di clorofilla che aiutano a combattere il cattivo odore. Dottoressa Serri, grazie per essere stata con noi. Prego. Grazie, buongiorno. buona giornata al dottor Gonfalonieri, e noi ci sentiamo venerdì, col titolo l'abbiamo già individuato. Buona giornata da Nicoletta Carbone.